prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Si corre spesso il rischio, se non si vivono le difficoltà in prima persona oppure gomito a gomito, di dimenticarsene, se proprio non ci toccano da vicino. Ebbene, sono passati ormai 12 mesi dal terremoto che ha colpito l'Italia, l'Emilia Romagna in particolare, ma anche parte del Veneto e della Lombardia. La Chiesa vi è vicina, aveva detto Papa Benedetto XVI durante il suo viaggio a giugno nei luoghi colpiti dal sisma, vicina con la preghiera e con l'aiuto concreto delle sue organizzazioni, in particolare della Caritas, che si impegnerà anche nella ricostruzione del tessuto comunitario delle parrocchie. E allora la rete Caritas, come sappiamo, si è mobilitata da subito, fin dai primi minuti dopo il sisma, 3 milioni di euro subito stanziati dalla CEI in fase di emergenza, e tutto ciò ha consentito di dare risposte ai bisogni immediati, attivando anche significative esperienze di gemellaggi. Ce ne sono di gemellaggi tra parrocchie emiliane e parrocchie venete, sappiamo che funzionano molto bene e contiamo che possano continuare anche al di là della chiusura dell'emergenza terremoto. Dopo la raccolta fondi che è stata fatta in tutta Italia il 10 giugno 2012, qualcuno lo ricorderà, 10 milioni di euro circa di offerte arrivate alla Caritas italiana, sono stati realizzati 17 centri di comunità, strutture polifunzionali per attività liturgiche, attività sociali e ricreative, per riaggregare e rafforzare il tessuto sociale. Il rischio poi in queste situazioni è che ci si isoli, magari si va a abitare distante, si vive nella propria tenda, come è stato per tante persone per tanto tempo, e si rischia di perdere appunto il legame della città, del paese. Ebbene, qualche giorno fa, domenica 10 marzo, il direttore della Caritas italiana, Don Francesco Soddu, ha inaugurato due di questi centri nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola, a Medolla e Stuffione di Ravarino, insieme al locale vescovo Monsignor Antonio Lanfranchi. A Medolla, per sottolineare la sinergia e l'impegno delle delegazioni regionali della Caritas, c'erano anche il vescovo di Asti, incaricato per la pastorale della carità per la regione Piemonte Valle d'Aosta, Monsignor Guido Ravinale, il delegato regionale delle Caritas di Piemonte Valle d'Aosta, Pierluigi Dovis. Al parroco Don Davide Sighinolfi è toccato il saluto iniziale, ed è stata una bella giornata. Questo centro a Medolla è stato realizzato anche grazie al contributo della Lega Calcio di Serie B. E poi nella stessa giornata è stato inaugurato anche il centro di comunità Stuffione di Ravarino, con il parroco Don Boguslav Kulescia e una concelebrazione eucaristica. Nel prossimo mese di aprile, quindi dopo Pasqua, sono previsti altri tre centri in apertura: Cavezzo, San Prospero e Solara, sempre nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola. A seguire saranno consegnati gli altri centri, che sono in fase di completamento, nelle diocesi di Carpi, di Ferrara Comacchio e di Adria Rovigo. È dunque un lavoro importante, un lavoro concreto, appunto, che poi rimane a queste comunità, e che dalle comunità è arrivato, perché la raccolta fondi, come sappiamo, è stata fatta in tutte le parrocchie italiane lo scorso mese di giugno, il 10 di giugno, e questo è un segno concreto e tangibile, appunto, di vicinanza anche materiale, ma anche questa è importante, soprattutto quando crollano le case all'interno della nostra popolazione. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Allargando lo sguardo al di fuori dei nostri confini, non solo quelli regionali, quelli nazionali, ma ci fermiamo in Europa senza andare in altri continenti, vi do un'altra notizia. Il 21 febbraio scorso a Bruxelles c'è stato un seminario di studio presso il Comitato Economico e Sociale Europeo. La Caritas Europa ha presentato il proprio Shadow Report, report sulle ombre, che include una valutazione sui programmi nazionali di riforma 2012 predisposti dai diversi paesi membri, tra cui c'è anche l'Italia. Questa iniziativa segue in ordine di tempo quella della settimana precedente, quando Caritas Europa aveva presentato il rapporto intitolato L'impatto della crisi europea, che esamina le conseguenze della crisi economica delle misure di austerità in 5 paesi deboli dell'Unione Europea. In queste ore si sta parlando di Cipro, ma i paesi deboli sono considerati l'Italia, il Portogallo, la Spagna, la Grecia e l'Irlanda. 3 anni fa, 2010, Caritas Europa aveva già lanciato per l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale una campagna Zero Poverty, Agisci Ora. Per l'occasione Papa Benedetto XVI aveva visitato l'ostello della Caritas diocesana di Roma. I risultati di questo rapporto dimostrano, e già molti lo pensavano, che le misure di austerità che ci vogliono, servono per rimettere a posto i conti, ma se non sono accompagnate da adeguate politiche di sostegno e di sviluppo, rischiano di avere un impatto sempre più negativo sulle vite delle persone povere e di far cadere molte altre persone per la prima volta in una condizione di povertà. Ed è quello che stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi. Chi è ricco o molto ricco evidentemente non ha problemi. Ah sì, magari sentito la crisi, ma insomma non in modo sostanziale per la qualità della propria vita. Chi è povero l'ha sentita di più, ancora di più, e chi invece stava abbastanza bene ha cominciato ad entrare nella categoria, diciamo, della povertà. Analizzando la crisi che ha colpito in particolare questi 5 paesi che dicevo, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e Irlanda, la Caritas Europa denuncia anche oggi come la risposta dei governi stia determinando nei diversi paesi un circolo vizioso. Italia, le spese operati con lo scopo di raggiungere gli obiettivi europei di riduzione del debito pubblico stanno riducendo i consumi, determinando costi sociali elevati legati al mancato accesso ai servizi da parte di una porzione significativa di popolazione colpita da disoccupazione in aumento. Il rapporto è stato arricchito anche dal decennale lavoro sul campo delle Caritas nei diversi paesi. È diviso in 4 parti, ci sono dati, testimonianze, esperienze, una serie di raccomandazioni rivolte all'istituzione e ai vari soggetti attori significativi a livello nazionale e a livello comunitario. I dati, insomma, ciascuno di noi può raccontare la propria esperienza o di persone che conosce. Il sottotitolo di questo rapporto di Caritas Europa è Verso una società che si prende cura in un contesto di crisi. La Caritas dunque cerca di rispondere all'austerità. Tutti i dettagli poi li potete trovare, il rapporto è molto lungo, dettagliato, quindi non abbiamo qui tempo di approfondirlo, ma è uno spunto che vi diamo sul sito www.caritasitaliana.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.